stesso corpo che non ti appartiene più. Dolore, odio, amore, non ha senso ormai per me. Guarda il cielo che... Tempesta si scatena. senza calore. Son queste mura solo dolore. Luce, ti sto cercando, vita, ti sto inseguendo. Dolce l'armonia con la natura di gioca si innalza per poi scivolare sui prati. Vibra in noi la gioia per l'attimo ineguale, in quel fragore tutta la sua gloria. Grido e mi risponde volando su quell'ala, e in tuffo tu il tuo nido mi aprirai. Thank you.

fioca nei tuoi occhi c'è, luna spenta perché le due regine stanno entrando, lo so cosa vogliono da te. Mille ombre corron verso me, vieni amico di qua, la strada è lunga ma guidarti saprò, la locanda eccola. Thank you. deve restarmi qualcuno vicino. Thank you. mondo crolla, pareti vengono giù. Cosa pensi sia il sole, un qualcosa che riscalda chi ha già amore, ha già problemi che non risolve mai. La vedo degli uccelli graffiano il cielo. Thank you. adesso volerò vicino a te. Sali sul tappeto, non pensare. Per noi deciso ha già, dove Le onde